È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Sapete questo che cos'è? È l'inno dei cristiano riformisti. Uno dei tanti gruppuscoli, uno dei tanti movimenti, quello dell'ex DC Mazzocchi, che fanno parte della galassia ormai sterminata del PDL, ma come fanno parte, come ci sono tanti altri gruppuscoli intorno ai partiti italiani, ai grandi partiti italiani. Hanno anche un inno. Ed è il partito, come sapete, dove Berlusconi ha pronunciato le famose frasi sui gay. Finché noi governeremo questo paese, le unioni omosessuali non verranno mai equiparate alla famiglia tradizionale. Finché noi governeremo questo paese, non saranno mai possibili le adozioni per i singoli né per le coppie gay. Mi sono ricordato, a questo proposito, del nostro mitico Roberto Straniero, lo ricorderete, giornalista di Telesveva, protagonista nel luglio del 2009, dunque un anno e mezzo fa praticamente, di una performance spettacolare, un fuori onda che è diventato culto, almeno per noi, della Zanzara, sulle coppie di fatto, sul premier, sulle frequentazioni del premier, eccetera, eccetera. France, io sono divorziato, esigo una legge sulle coppie di fatto perché non mi voglio sposare più. Tu, Berlusconi e i tuoi, mi rompete i coglioni a non farmi questa legge perché siete i difensori della famiglia di sto cazzo, va bene? E andate a puttane, tutti dei, shut up puttane. No, questi sono i fatti, ecco perché non è privato, è pubblico. Perché voi fate i family day impedendo un diritto a me. Mi togliete un diritto perché siete i difensori già, della... Ce io ce l'ho perché sono giornalista. I giornalisti e i deputati ce l'hanno questo diritto. Va bene? Cioè il diritto ai milioni di persone che stanno nelle mie condizioni perché siete i difensori della famiglia. Per piacere. Era un dialogo, praticamente un monologo tra Roberto Straniero di Telesveva, il presidente della provincia chiamata Bat, che poi starebbe per Barletta, Andria e Trani. Prosegue, prosegue. Io tengo un figlio da 26 anni, un figlio da 29. Frangè, l'opportunità da amnandente che è per tutto quello, io non ci penso proprio, perché io l'idea che hanno un figlio, ma va adesso, papà, c'è cazzo per fare. Non si parla in Roberto, ma tutta questa cosa qua, che c'entra con l'Italia o con la ministra dell'Italia? Che c'entra? C'entra. Ma voi scherzate? C'entra, perché la moralità è un fatto fondamentale. Ma che state scherzando? No, la moralità è una cosa personale. Andiamo, dai, voi siete i difensori della famiglia. Siete i difensori dei principi cattolici, dello Stato, dai, per piacere. La moralità è un qualcosa che attiene alla persona. No. Non attiene, no, per l'uomo pubblico, no, non per l'uomo pubblico, ma stai scherzando. Riguarda me, riguarda non Luigi, è riguarda. È una cosa personale. Lasciamo perdere. È una cosa personale di coscienza. Lasciamo personale per la perdere. Moralità. La prima parte in pugliese era si può tradurre in questo modo. Se io andassi con una minorenne, mio figlio mi direbbe: papà, cosa stai facendo? Va bene, sempre l'inno dei cristiano riformisti di sottofondo. Il telefonino di Parenzo, chiamatelo su, non sbagliate numero stavolta. Il telefonino di Parenzo, dov'è? Dov'è finito Parenzo? Che c'è anche un ospite qui che aspetta. Parenzo, palesati! Bello questo inno dei cristiano riformisti, però chissà chi l'ha fatto. Parenzo? Parenzo? Parenzo? Vodafone, servizio di... È spento il telefonino, va bene. Allora, prima di presentarvi un ospite, Lele Mora si vuole candidare con il PDL. La mia idea è alle prossime elezioni candidarmi e entrare in politica. Quindi ci dà una notizia, alle prossime elezioni lei sì, si candida? Certo, se mi vogliono, se mi accettano, io chiederò per poter fare questo. Con quale partito? Sempre un partito di destra. Ecco, il PDL, se sarò assolto, prosciolto, eccetera, eccetera, perché sai, se sei inquisito non puoi fare questo genere di lavoro. Beh, la frase "se sei inquisito non puoi fare questo genere di lavoro" è alla Di Pietro e non è che si intona molto con il personaggio Lele Mora e soprattutto con l'amicizia di Lele Mora. Chissà che poi magari non lo ritroviamo tra i cristiano riformisti Lele Mora, sarebbe davvero un paradosso. 800 24 00 24, abbiamo con noi Nino Rizzo Nerbo. Buonasera. Buonasera. Spero si sia divertito a sentire queste follie. Consigliere di amministrazione della RAI, e le voglio chiedere subito: come finirà la storia dei talk show a targhe alterne, a settimane alternate, prima quelle di sinistra, poi quelle di destra? Lo dico per semplificare. Ma guarda, secondo me finirà in un nulla di fatto, francamente. Io non ho mai creduto che... E perché butti proprio? Come l'altra volta, il principio della ridondanza, se lo ricorda? Sì, cioè sì. Che se il lunedì si parla in porta a porta della Fiat, poi il martedì non ne può parlare Ballarò, il venerdì non ne può parlare Paragone, perché un tema va affrontato una volta alla settimana. Quello è già accaduto, io credo che anche questa volta finirà in un nulla di fatto. Ma secondo lei chi lo propone già lo sa che finirà in nulla di fatto, no? Ma penso di sì. Dunque lo propongono. Sì, io sono convinto. Butti l'ho conosciuto quando io facevo il direttore del TG3 e in alcune edizioni della Vigilanza. Come lo considera? È una persona intelligente, quindi lui ha fatto, può anche me... se pensa che non sia intelligente lo può anche dire, non è... No, è una persona intelligente, secondo me è una provocazione, è una sciocchezza la cosa, ecco, non dico in termini gentili, ma solo una provocazione, punto. Una provocazione che non avrà nessun tipo di... sciocca. Una sciocca provocazione. Una sciocca provocazione. Bene, bene. No, ma il problema è uno, come si... Poi anche se uno volesse farla questa cosa, non è che si può pensare che talk show vanno in onda con un conduttore una settimana, con un conduttore un'altra settimana e poi ritorna il conduttore precedente. Cioè, mi pare una questione anche complicata, forse una novità nel palinsesto di qualsiasi televisione mondiale. Cioè, non esiste una cosa di questo tipo, no? O sbaglio? No, ma appunto dico una sciocchezza, perché in qualsiasi altro paese del mondo riderebbero di fronte ad una proposta di questo genere. Io lascerei tutto un po', diciamo, sullo scherzo, perché se ne vogliamo parlare veramente, allora ci sarebbe da dire che un indirizzo alla Commissione parlamentare vigilanza contro la Costituzione, eccetera, eccetera, contro l'autonomia di un editore. E sicuramente però rivela quello che è sempre stato un desiderio, diciamo, dei... Ma lei la mette seriamente, allora? Cioè, il desiderio quello di voler fare i palinsesti loro, no? Indipendentemente da Santoro, da... Cioè, lei dice che credo Butti... Che questo sia l'unico paese, no? Che credo che se si fa a fine giornata un conto delle agenzie, sì, è l'unico paese dove una decina di deputati, senatori, che ogni giorno parlano e commentano i programmi televisivi andati in onda, no? Cioè, Butti si vuole fare il suo palinsesto. E si critica la RAI, c'è il suo bicoscio, il desiderio di essere qui al posto di chi fa le trasmissioni. E questo non è male. Butti vorrebbe fare praticamente il direttore di rete, insomma, lei dice. Insomma, si divertirebbe. Annunziato ha detto che vorrebbe fare il direttore generale, secondo lei. E quindi fare i palinsesti, l'ho detto oggi, non ricordo su quale giornale. Senta, ma io ho letto qualche giorno fa che il direttore generale della Rai doveva dimettersi, invece poi che succede? Doveva essere sostituito, sembrava una questione di giorni. Invece guardi, questo non è, su questo francamente non ne so dire assolutamente nulla. Dovrebbe chiedere al direttore generale della Rai. Questo è evidente, devo chiedere a lui. Però non lo so, io ho letto una sua intervista sul Foglio la volta scorsa, che tra l'altro sì, in alcune parti ho detto pure che la condividevo, dove lui diceva ad esempio che con questa governance, se non ha torto, sì, non è possibile guidare questa azienda. Ora non so se era un'intervista che preparava una sua uscita, per cui domani dice vabbè me ne vado perché qui non si può fare nulla. Però è una mia illazione. Per cui non è, diciamo, non è una cosa imminente come sembrava qualche giorno fa. Ma non lo so, francamente non glielo so dire se è imminente, se non è imminente, se avviene mentre noi parliamo al telefono, se non avverrà per i prossimi anni, non lo so. Senta, no, i prossimi anni non credo, insomma. Ma invece il debutto di Ferrara come lo giudica lei? Come l'hanno giudicato in molti nell'opposizione, eccetera, eccetera, come la mano di Berlusconi che tenta di mettere uomini suoi, cioè. Io devo dire, come lo giudico? Non lo giudico, cioè, se c'è il direttore di Rauno che vuole Ferrara ben venga Ferrara. Io tra l'altro con Giuliano ho lavorato benissimo alla 7, lui si ricorda come nel 2001 quando c'ero anch'io quindi non mi preoccupo un Giuliano Ferrara in Rai. Tra l'altro, poi spesso le cose si dimenticano, io l'anno scorso in consiglio di amministrazione, proprio io mentre si parlava, il direttore generale diceva sto parlando con Belpietro, con quest'altro, per fare un programma di approfondimento in aggiunta a quelli che ci sono, io gli avevo detto scusa, valuta pure Ferrara, anche se so che non ha poi tanta voglia di tornare in televisione, ma in quel momento evidentemente Giuliano non piaceva. Detto questo, domani abbiamo consiglio, voglio soltanto capire che cosa viene a fare, perché ancora non ne sappiamo nulla. Abbiamo letto tutto sui giornali. Io non credo che venga a prendere il posto dello spazio, abbiamo scritto male i giornali, il posto dello spazio di Biaggi. No, poi lo spazio di Biaggi era più lungo, no? Era più lungo. C'è una trasmissione di 14-15 minuti, esatto, in anni in cui la prima serata di Reuno, ad esempio, cominciava alle 21 e non alle 21.15 come adesso. E Biaggi fu sostituito dai Pacchi, diciamo, non fu sostituito. Poi ci fece invece una, si chiamava all'inizio Batti Ribatti, si ricorda? Sì, come no? Certo. Ci fece uno spazio di 3 minuti e mezzo, 4 minuti, 4 minuti. Dovrebbe essere quello, no? Dovrebbe essere quello. Il TG, l'ultimo, diciamo, lo fece Clemente, lo fece Mimun, e credo che debba essere quello, perché se no... Cioè Biaggi, lei sta dicendo, i paragoni con Biaggi non c'entrano nulla, quelli fatti in questi giorni. No, i paragoni con Biaggi rispetto alla trasmissione, non viene, certo. Non è quello, viene l'ultima cosa di questo genere, l'ha fatta Clemente, e che faceva tra l'altro, quindi questo sarebbe positivo, faceva chiudere il digiuno ai 28, quindi se il digiuno chiude alle 28 non mi dispiace assolutamente. Perché non le dispiace? Perché preferisco Ferrara a Minzolini, devo dire. Cioè meno dura Minzolini, meglio è, insomma. No, assolutamente. Lei dice preferisco Ferrara a Minzolini. Se lei mi chiede chi preferisce tra Minzolini e Ferrari, io non ho dubbi, dico no, Ferrara. D'accordo, dunque lei vorrebbe addirittura un Ferrara extra large che occupi una buona parte del TG1, fosse per lei. Ah, mi dica la verità, siamo qui a confessarci alcune cose. Il Ferrara al TG1 che suscitò tante polemiche, no, che io vidi, ma lì il problema non era di Ferrara, era che Ferrara non venne intervistato dal digiuno, fece un monologo per 6-7 minuti come le sue interviste neanche al Presidente degli Stati Uniti ha avuto lo stesso spazio all'interno del digiuno. Comunque lei non è tra quelli che dicono Ferrara è un portavoce di Berlusconi, assolutamente no, così come ad esempio non sono contrario se finalmente Bruno Vespa farà un approfondimento in prima serata su Reuno. Bene, allora abbiamo il traffico, torniamo subito, 800 24 00 24. Beh, qualcosa Rizzonevo ci ha detto, fosse per me farei finire il TG1 a 28, così c'è più Ferrara e meno Minzolini. Dei cristiano riformisti, meraviglioso, stupendo, ineguagliabile, accogliamo David Parenzo. Ma che bel benvenuto che mi dai, guarda. Ma guarda, non scherzare, l'inno dei cristiano riformisti è il luogo in cui Berlusconi ha fatto le sue esternazioni sui gay, sulle famiglie omosessuali e tutte queste nascono cose. Nascono partiti come i funghi dopo la pioggia. Questi non sono partiti, sono piccoli movimenti all'interno di queste enormi funghi, funghi come i funghi, quando c'è una bella in montagna, piove e poi nascono i funghi. Allora, mentre tu non c'eri, era nostro ospite ed è ancora nostro ospite uno dei consiglieri di amministrazione della RAI, che si chiama Nino Rizzo Nervo, lo conoscerai sicuramente. Come no? Le saluto il dottor Parenzo, signor Rizzo Nervo. Lo saluto anch'io. Allora, buonasera. Ci ha detto una cosa prima, che lui non, è affatto contrario, pur facendo parte, diciamo, come consigliere di amministrazione della RAI, dell'opposizione, diciamo così, per capirci, al fatto che Ferrara faccia la sua trasmissione dopo il TG1, anzi ha detto, togliamo un po' di spazio a Minzolini e facciamo Ferrara che inizia prima. E questo è buon senso. Più Ferrara, meno Minzolini, questo è il consiglio di Rizzo Nervo, io lo sottoscrivo, però insomma io sono un po' di parte con Ferrara, lo ammetto e lo confesso. Invece sulla trasmissione di Sgarbi che mi dice, signor Rizzo Nervo, ne sa qualcosa? No, non ne so assolutamente nulla, quindi so che sono previste 5 puntate di Sgarbi, ci ha detto una volta il direttore generale del consiglio, sì? Mi dicono che dovrebbe partire il 1° aprile, ma dallo stesso Sgarbi, dalle cose che leggo, vedo che c'è del ritardo, però anche lì ho sempre detto la RAI ha bisogno di innovazione. Noi abbiamo avuto un programma innovativo che devo dire è stato un successo, che è stato Vieni Via con me. Sgarbi promette un programma innovativo e gli faccio gli auguri di avere lo stesso successo di Saviano. Ma anche qui, siccome poi Toscani se n'è andato dicendo che sarà sicuramente un programma filo berlusconiano, non voglio essere catalogato, eccetera, c'è questo problema secondo lei? Cioè è tutta un'operazione creata? Ma guardi, io non sono mai portato a... così come non ho mai fatto dietrologia, non faccio mai avantologia. Per cui si decidono le trasmissioni, poi si vede che cosa sono e le si giudica dopo. Non ho alcuna intenzione di giudicare le trasmissioni prima di vederle. Quindi se Sgarbi farà questo programma, lo faccia, gli faccio gli auguri appunto di avere lo stesso successo che ha avuto Saviano su Rai 3, e poi se non mi piace quello è difficile, ma il fatto che poi non mi piaccia non significa che Sgarbi non lo debba fare. No, infatti. Cioè, dovremmo un po' abituarci invece di fare indirizzi, no? Sì. Di essere un pochino più laici nel guardare la televisione, che ci sia Sgarbi, che ci sia Santoro, che ci sia Ferrara, che ci sia Flores, che ci sia la Gabbanelli, che ci siano tutti. Questa dovrebbe essere la ricchezza di un servizio pubblico. Senta, che nessuno si spaventi, ecco. No, ho letto che Freccero vorrebbe Luttazzi a Rai 4, lei è d'accordo? Ma lo decide Freccero, voglio dire. No, d'accordo, ma insomma, adesso non ci nascondiamo dietro le cose. Le sembra un'operazione sensata? Siccome Luttazzi ha dei precedenti non proprio positivi in televisione. Decida Freccero. Freccero sta facendo bene Rai 4. Rai 4 è uno dei canali nuovi, diciamo di nicchia, che però raggiunge adesso per quel tipo di canale un pubblico dell'1%. Decida lui come fare quel canale. Senta, quanto toglierebbe a Minzolini per mettere più Ferrara? Quando lo facciamo fine, Minzolini? Alle 8:20? Lo facciamo fine alle 8:20? Che dice? No, guardi, il programma però non lo dico per no, ma così. Io non sono come Minzolini, però siccome Minzolini nel suo telegiornale finisce di dare informazione di solito alle 20:13, 20:14, e dopo che cominciano i servizi sui cagnolini, sulle cose su queste varie amenità senza notizie, per cui chi vuole notizie è inutile, guarda il TG1, Ferrara potrebbe andare alle 20:13. Il modello secondo me è quello là di Mimundo, che il TG1 finiva il 28, perché poi ci sono problemi anche di ricavi pubblicitari. Dunque Ferrara potrebbe andare alle 20:14, dopo una volta finite le notizie. il problema è che poi Minzolini anticipa in apertura i cagnolini, capito? Come? Che il problema è che Minzolini, se lo chiudete alle 20:14, anticipa i cagnolini nelle prime notizie. Vabbè, se non esagerare come al solito. Questo è il problema, capito? Dice dramma cagnolini in Piemonte. E questo è il fatto. Mamma mia, come siete cattivi con Minzolini, poi mi tocca difenderlo. Vabbè, signor Rizzo Nervo, io volevo qualcosa su una questione di Masi. Ma la fidanzata di Masi dice che fa un programma con Rai 2 insieme a Costanza, è possibile? Io ho letto l'intervista di Costanza dove Costanza ha detto che ha scoperto lui. Ma è opportuno che ci sia, diciamo, la compagna? Poi, è opportuno che ci sia comunque la compagna del direttore generale, no? Devo dire, direttamente il direttore generale l'ha già trovato in Rai, non credo che si possa impedire a nessuno di innamorarsi di una persona che trova nel posto dove va a lavorare, dopodiché credo che il direttore generale abbia sia così prudente, così intelligente da capire che se la sua, che ognuno fa la carriera per quel che vale, non per altro. Dunque non ci trova niente di particolarmente drammatico in questo. Della bossa Butti avete parlato? Sì, abbiamo già parlato, abbiamo detto una sciocchezza, eccetera, eccetera. Va bene, signor Rizzo Nervo, qui c'è la sigla di chiusura. La ringrazio, a presto. Arrivederci, grazie a voi. Caro Parezzo, ci sentiamo alle 19.15. Sì, ci saremo, come un solo uomo. 800 24 00 24, La Zanzara. Siamo qui, 19 e 18, 800 24 00 24, caro Parenzo. Sì. Dove sei? Pronto? Dove sei? Sono collegato dalla solita postazione di 24, cioè la caffettiera Piazza di Pietra. Sì, cerca di posizionarti meglio perché il telefono e la linea telefonica va e viene. Annuncia... ho capito, fuori piove però, amico mio, eh? No, lo so. La pioggia ancora non c'è. Esistono anche cose, no? Esistono i... Sì. Gli ombrelloni, no? Gli ombrelloni, non li hanno messi gli ombrelloni? Sto fuori con l'ombrello, con la pioggia che cade. Senti freddino forse? Senti un po' freddino, eh? Beh, un po' freddino, amico mio, sì, è la magliettina di lana della salute sotto. Beh, la magliettina della salute, sai, è oggetto di discussioni. C'è chi è d'accordo, c'è chi è contrario. Lo so, è un dibattito aperto. Un dibattito molto aperto. Intanto annuncia il nostro telegiornale preferito, s'il te plaît. Il TG3 diretto dalla grandissima Bianca Berlinguer. Ondata di maltempo al centro-sud, 3 morti nelle Marche, travolti dai fiumi esondati, 1 morto in Romagna, 100 feriti a Trieste per la bora. Nuovo intervento televisivo del Reis, combatteremo fino all'ultimo uomo, controffensiva del regime all'est, sanguinosa battaglia per il controllo della città di Brega. Alla frontiera con la Tunisia decine di migliaia in fuga dalla guerra, sono egiziani, arabi, orientali che vogliono tornare nei loro paesi. Il conflitto di attribuzione sul caso Ruby, Fini invita la giunta ad approfondire, Pisano al TG3, evitare altre tensioni istituzionali. Tra poco il voto di fiducia sul federalismo, malumori tra i parlamentari del Sud, Calderoli 4 mesi in più per l'approvazione finale. Ruby arriva a Vienna, domani parteciperà al ballo delle debuttanti e nei verbali dell'inchiesta il balletto delle cifre avute da Berlusconi. Roberto Saviano al TG3, attraverso la scuola che il nostro paese si trasformerà, e sull'immigrazione dice: il governo sogna un'emergenza per uscire dalle difficoltà. Liberi di essere liberi, liberi di essere uomini, liberi da guerre e schiavitù, dai vincoli politici che esistono qua giù, liberi di credere, liberi. Bisogna imparare la memoria questa, Parenzo. È veramente bruttissima. È meglio quello di Pionati. No, è meglio questa, Alleanza di Centro per l'Italia. Bella questa, fra poco la metto. Vediamo chi è più bello. È meglio quella dei cristiano riformisti o di Alleanza di Centro per l'Italia? Grande referendum a Radio 24. Sentiamo ancora, sentiamo. Ti faccio sentire la famiglia forza dell'umanità, poi Berlusconi sui gay, famiglia, eccetera, eccetera. Sembra la canzone di Topolino, dai. Ma dai, non essere così cattivo, sarcastico. No, scusa, ai cristiano riformisti, no? Antonio Mazzocchi, credo che si chiama così, a un certo punto sale sul palco e ringrazia un personaggio che più tardi avremo nostro ospite. La storia è raccontata in maniera meravigliosa oggi in un articolo sul Fatto. Si chiama Sua Eccellenza Lucas Rocco Massimo Giacalone, ti giuro, Sua Eccellenza Lucas Rocco Massimo Giacalone. Senti. Perché Sua Eccellenza? No, senti. Ringrazio lo vedo qui presente, Sua Eccellenza Monsignor Luca Rocco Massimo Giacolone. È un personaggio incredibile, un falso monsignore. Un falso monsignore, detto anche Monsignor Patacca, un falso monsignore che si è accreditato che siano riformisti, ha addirittura pranzato o cenato con Berlusconi. E poi cercheremo di capire chi è, un personaggio pazzesco, pazzesco. È un numero uno. Mi definisco un umile curato di campagna e Francesco d'Assisi è stato da sempre ed è la mia guida spirituale verso il Signore. Ma non è vero. No, non è vero nulla. Racconta di essere stato ordinato sacerdote a San Paolo in Brasile nel 2006. Vabbè, una storia incredibile. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Sulle note dell'inno dei cristiano riformisti direi di sentire un'anteprima delle Iene di questa sera con Gaucci, intervistato da Lucci. Gaucci e Lucci sono ormai una coppia perfetta e l'ex patrona del Perugia dice una cosa che già sapevamo ieri dai lanci d'agenzia, cioè che vuole ospitare Gheddafi a casa sua a Santo Domingo. Era l'unico che te era rimasto vicino. È vero, è vero. Mi ha fatto telefonare dai figli, mi ha invitato di andare da lui, mi ha detto se mi serviva qualcosa. Che faresti tu per lui? Metti che lo cacciano a pedate nel sedere. O lo potresti ospitare qua a Santo Domingo? Allora, lo ospiterei, darei tutto quello che posso. Se lui volesse venire. Presidente Gheddafi può venire anche qua a Santo Domingo da Gaucci. Certo, io sarò il primo ad ospitarlo. Io faccio il tifo naturalmente per Gheddafi a Santo Domingo, direi, direi che sarebbe la soluzione ideale per tutti. Tu sai quanto a me Gheddafi sia in quel posto lì, diciamo, quanto lo detesti per quello che ha fatto al suo popolo, per quello che rappresenta, però augurargli di finire la sua vita da Gaucci. Un attimo solo, casa Gaucci a Santo Domingo. Benvenuto al correo dei votiva. Niente, come quest'estate non risponde mai alle 19:24. È una cosa pazzesca, bisogna rincorrerlo per tutta la sera. Hai sentito la segreteria telefonica? No, Gaucci squillava, ma Gaucci a Santo Domingo a quest'ora non risponde, non c'è niente da fare. Mi dicono, il suo avvocato mi ha detto che a Santo Domingo cercheremo di rincorrerlo. Intanto Renzi, il sindaco di Firenze, il quale dice: nel Partito Democratico mi trattano come uno scilipoti qualsiasi. L'ho visto a Omnibus stamattina, sì. Sentiamo. Siccome io non sono uno che parla il politicamente corretto dentro il mio partito, quell'idea è quella di far dimostrare Renzi come una sorta di scilipoti qualsiasi. Ecco, a questi rispondo con un non ti curare di loro, ma guarda e passa, per utilizzare le parole di un fiorentino serio. Va bene, cosa c'è da sentire di oggi prima degli ascoltatori? Ancora La Russa contro, in questo caso devo dire qualche ragione ce l'ha, anche se forse ha sbagliato i toni, un esponente dell'Italia dei Valori che si chiama Evangelisti che dice: è retorica, La Russa stava parlando dell'italiano morto in Afghanistan, e La Russa risponde: anche gli sciacalli hanno il diritto di parlare. Stato tre giorni fa a salutare i paracadutisti che stanno per partire. Un ragazzo e una ragazza ho chiesto: partite anche voi? Li ho visti diventare tristi, li ho visti quasi vergognarsi, mi ha detto: noi no, speriamo la prossima volta noi due. Non è retorica, è verità, amico mio, perché tu te ne stai qui comodo nei banchi seduto a interrompere un momento di sincerità. Lasciami finire, dopo parlerai. Colleghi, per cortesia. Dopo parlerai. Che cosa? Silenzio, silenzio, cortesia. Lasciatelo in pace. Gli sciacalli hanno anche colleghi, il diritto di parlare. Anche gli sciacalli hanno il diritto di parlare. Lasciatelo parlare. Bene, 19:26, 800 24 00 24. Non ho capito qual è la colpa dell'onorevole Fabio Evangelisti dell'Italia dei Valori, che a un certo punto, non si sentiva naturalmente, ha interrotto La Russa, o comunque ha preso la parola mentre La Russa ricordava questo episodio dell'incontro con alcuni militari che devono partire dall'Afghanistan, dicendo: è retorica, ministro, questa è tutta retorica. E La Russa in realtà stava ricordando un episodio, non mi sembrava. Mi sembrava sincero, poi La Russa quando parla dei soldati, eccetera, cioè non mi sembra falso. Comunque, in ogni caso, lui addirittura dello sciacallo per questo. Perché lui dice: non è mai successo durante la risposta ad un'interrogazione o comunque un'informativa, credo che fosse un'informativa in Parlamento, in cui un ministro della difesa interviene per spiegare cosa è successo, la morte di un militare, che ci fosse una discussione di questo tipo. Comunque, insomma, questo è quello che è accaduto. Michele D'Asti, buonasera. Buonasera a Luciani e Parenzo e a tutti i radioascoltatori. Dica. Michele? Sì, io Sì, io volevo un attimo fare il confronto fra due notizie che sono apparse, una ieri e una oggi. Sì. Sono due lettere, una quella del ministro tedesco Gutenberg, sì, alla sua cancelliera Merkel, e l'altra del nostro ministro della cultura Sandro Bondi, non al suo presidente ma al giornale, sì, visto che entrambi, uno sicuramente e l'altro con molta probabilità, preannunciano le dimissioni. Beh, sono due casi molto diversi, caro Michele. Uno si dimette per la questione della tesi di laurea copiata, sì, no, o scopiazzata, infatti, eccetera. Un altro, per un altro si dimette per altri motivi, perché non gli va più di fare ministro, perché è successo quello che è successo, sì, perché dice di essere stato abbandonato, sì, amareggiato e tutto quanto. Sì, no, io vorrei appunto, era appunto questo che volevo sottolineare, il fatto che in Germania un ministro si dimette per un, tra l'altro, sì, per un fatto brutto che comunque non è stato nella sua attività politica, ma non cerca scuse e anzi ammette semplicemente di avere sbagliato, sì, e invece un ministro qui da noi che addirittura nella sua lettera non fa cenno comunque a sue mancanze da ministro, ma si dimette solo accusando l'opposizione e soprattutto la sua parte di non averlo sufficientemente tutelato, e non spende una parola su quello che ha fatto, anche di molto criticabile, sia come in azione come a Pompei. Guardi, questo è un suo giudizio, questo è un suo giudizio naturalmente su Bondi, lei è libero di dare tutti i giudizi che vuole su Bondi, detto questo non è che ci sia un giudizio oggettivo su quello che ha fatto o non ha fatto Bondi. Guardi, tutti i paragoni che si sono letti in questi giorni tra il caso tedesco e quello italiano secondo me sono totalmente inappropriati, glielo dico subito come la penso io, non faccio l'ipocrita, non penso... Sì, c'è solo il problema dei parenti, amico mio, diciamo, comunque... Sì, no, ma non sto parlando del caso Bondi, sto parlando di quelli che hanno fatto il paragone in questi giorni tra la vicenda, sì, di Gutenberg e il caso italiano in cui non si dimette nessuno, mentre in Germania basta, diciamo, esatto, che venga fuori che uno ha scopiazzato la tesi di laurea per portare le dimissioni. Ogni paese, ogni paese ha i suoi paletti, i nostri, certo, evidentemente sono molto più alti, sono molto, sì, saranno molto più alti per le dimissioni, non c'è perché dubbio. Perché vedi la differenza quale? Uno può fare il ministro della cultura anche se ha scopiazzato una tesi di laurea, ma uno non dovrebbe più fare il ministro della cultura se ha preso nel suo ministero e ha fatto lavorare delle persone a lui molto vicine. Sì, no, ma... i ministri della cultura non laureati ce ne sono stati di bravissimi, grandi intellettuali che non hanno la laurea. Guarda, hanno fatto sui parenti tra virgolette assunti o stipendiati da Bondi abbiamo già dato, eccetera eccetera. Beh, esatto. Anch'io sono convinto che basta una cosa di questo tipo per far dimettere un ministro. Sarà più grave questo di aver copiato una tesi di laurea, no? Assolutamente sì. Se uno deve valutare il lavoro di un ministro. E dico di più, è più grave aver dato un contratto al figlio dell'attuale compagna, piuttosto che la vicenda di Pompei, che invece, come si sa, non dipende certamente da Bondi. Ci sentiamo dopo la borsa. È roba seria, Parenzo, mica si può prendere in giro così. Intanto Carlo De Benedetti è sempre l'inno dei cristiano riformisti, che sentite in sottofondo. Carlo De Benedetti, ingegnere, sì, proprietario del gruppo Espresso, eccetera eccetera, candida Mario Monti per guidare con successo l'opposizione. Questa è una notizia importante, un'intervista al settimanale tedesco Die Zeit, che uscirà giovedì. Tutto il PD lo vuole per ridare all'Italia il rispetto che merita. Dice che il PD vuole Monti? Così o dice De Benedetti, vuole. Guarda, è una notizia quasi, non dico bomba, ma insomma una notizia importante. No, bombissima. D'Alema, tutto il PD, che è il centrosinistra e allo stesso tempo il maggiore partito dell'opposizione, vogliono Mario Monti. Almeno questo qua è il sunto dell'intervista che uscirà per Die Zeit, settimana tedesco Die Zeit. Dice ancora De Benedetti che siamo una barzelletta del mondo per la vicenda Berlusconi. Mario Monti sarebbe disponibile se tutti i partiti lo appoggiassero. Beh, questo è... Una candidatura di Mario Monti senza che Mario Monti lo sappia, però, c'è da considerare, sì, anche sì, questo, Poi ieri vi volevo dire, poi mi sono perso il foglietto, di questo una fra... è forte, ma non c'è nessun commento di Bersani, del PD. No, ancora no, perché Bersani era in aula a cercare di dividere la Lega da Berlusconi. Senti che cosa ha detto sulla questione del federalismo municipale, senti. Io vi parlo diritto. Ve l'ho detto fuori di qui e ve lo dico qui. Noi vi garantiamo che il processo federalista va avanti anche in diverse condizioni politiche. Se volete reggere il moccolo al miliardario, se volete mettere il carroccio a servizio dell'imperatore, non trovate scuse del federalismo, che non c'entra niente. Bersani cerca di far tornare l'animo della Lega del 94, eh? Beh, bella, però se volete reggere il moccolo al miliardario... Se volete reggere il moccolo al miliardario, tagliatemi questa cosa, se volete reggere il moccolo al miliardario... Mo ragazzi! Se volete reggere il moccolo al miliardario... È una stronzata quella che ha detto Bersani, diciamo la verità, cioè è propaganda politica alla Stato puro, ma ci sta, eh. Scusami, miliardario e miliardario. Sì, vabbè, allora qual è il problema? Lui lo dice con disprezzo, se volete reggere il moccolo al miliardario, ho capito. No, non dice con disprezzo, dice con ironia, vabbè. Perché leggi con ironia? Ma perché che ironia? Qual è ironia? Disprezzo. Bersani non conosce l'ironia, innanzitutto. Hai mai visto Bersani ironico? Molto ironico. Mai. E c'è una delle cose che non gli si può dire che non è ironico, perché è una persona molto divertente invece. Magari, con mille limiti magari, ma è una persona divertente. Mo ragazzi, Berlusconi è come il pedalò, esce solo quando c'è il sole. Ma queste sono le imitazioni di Bersani, ma non lui di suo non è per niente ironico. Comunque, Roberto da Brescia. Posso dirti che è più divertente Bersani di Berlusconi? Ma quando mai? 800 24 00 24, Roberto da Brescia, buonasera. Sì, pronto, sono in linea. È un ascoltatore. Buonasera, grazie che mi avete richiamato. Beh, innanzitutto vi ringrazio, come cercate di allietare un po' questa politica italiana, ma io sono nauseato, non ne posso più. Io addirittura. Io agogno, spero, desidero che qualcuno faccia una nuova piazzale Loreto, ragazzi, qui. Beh, Roberto, spero che lei stia scherzando, perché altrimenti chiamiamo subito l'ambulanza. Sono stato un elettore di centro, purtroppo, o per fortuna, non lo so, a questo punto direi purtroppo, sì. Però qui io non andrò mai in piazza perché non sono il tipo di piazza, ma se qualcuno andasse non mi metterei in mezzo alla strada a fermarlo. Io non mi metterei in piazza a fermare una nuova piazzale Loreto, qui dobbiamo ripartire da zero, ragazzi. Sì, signor Roberto, già ci sono troppi anni zero in circolazione, quelli che parlano di anno zero, di costruzione, dalle macerie, eccetera. Questo lo diceva anche Pol Pot. Portiamo anche, guardi che ancora un po' ci mancherà poco, che va bene anche Pol Pot pur di far piazza pulita qui. La chiami tu Parenzo? No, siamo, non arrivano neanche, perché è talmente oltre l'ambulanza che non si rifiutano di arrivare, dei casi troppo gravi si rifiutano. Il problema è che non è questione di chiamare l'ambulanza, qui bisogna richiamare le persone a fare il loro compito, il loro dovere. Quello sempre, basta, in ogni caso. Basta. Per esempio Prodi in un'intervista a Famiglia Cristiana dice: ormai non posso nemmeno scendere in strada, la gente mi riconosce e mi chiede, torna. Aspetti un attimo, non dice solo questo. Lunedì mattina ero a Mantova e sono andato alla messa del mattino per evitare di essere avvicinato. Cioè, Prodi ci vuole far credere che va a una messa del mattino, magari presto, per evitare di essere avvicinato. Ma dico, stiamo scherzando? Cioè, pensa davvero Romano Prodi che noi crediamo a queste baggianate? Ma in quel caso un gruppo di fedeli anziani mi ha circondato e mi ha chiesto di tornare a guidare questo paese. Ma io dico, che roba da matti, ma come si possono ascoltare cose di questo tipo? Però scusami, al messo come dire, del un po' di propaganda che ci può essere, ma è vero che Prodi è stato l'unico leader in grado di essere qui non stiamo dando un giudizio su Prodi. Ma tu credi davvero che non può scendere in strada perché la gente lo circonda chiedendogli di tornare? Non penso che abbia un consenso pari a quello di Marco Rossi. Ma lascia perdere il consenso che ha Prodi, non mi interessa nemmeno. Tu credi davvero che le masse frappandosi i capelli dicendo Roma, come Vasco Rossi, non penso. Ma penso invece che sia stato, e ci sono delle ragioni, l'unico che potrebbe essere ancora oggi in grado di sconfiggere Berlusconi, questo lo penso. Ma quando mai? Chi Prodi? Questo assolutamente. Prodi è l'unico in grado, ma tu sei impazzito, no. Uno come Prodi stai dicendo, non Prodi. Uno come, profilo alla Romano Prodi. Ah, certo. Col profilo alla Romano, non Romano Prodi. Cioè, no, ma Romano Prodi ormai ha già detto che ha chiuso, ha fatto la sua stagione. Può darsi che sia così. Ma Draghi ha il profilo alla Romano Prodi, Roberto, viene da quella scuola là. Roberto, allora come vuole concludere? No, io voglio concludere, così la mia è stata una provocazione, spero che si torni a parlare veramente di questo paese, di poter portare avanti un'idea, non come la regione Lombardia oggi che vota la festa della Lombardia il 29 maggio, il giorno di Pontida, ma chiamate l'ambulanza per questi che sono lì, la Nicole Minetti, ma già propone la festa di Pontida 900 ma già l'abbiamo fa. Chiamata, lei ha ragione, la festa della Lombardia è una follia. 900 anni fa, 950 anni fa siamo qui a celebrare Pontida, ma siamo matti. Ma quelle sono cose folcloristiche, non è che stiamo a casa, non è che è un giorno di vacanza quello là, eh. Sarebbe anche una contraddizione per la Lega che non voleva la vacanza per il 17 marzo. Mario da Verona, buonasera. Buonasera. Dica. Intanto mi permetta di dire una roba a Roberto, che da buon italiano dice che se gli altri vanno in piazza ci va anche lui, quindi questo dimostra veramente che l'iniziativa noi non la prendiamo mai. Però volevo fare un intervento dopo aver ascoltato il grande Lele Mora, no? Sì. Perché io effettivamente sentivo la mancanza a livello politico di personaggi di questo calibro, sia ben chiaro, veramente la sentivo, perché oramai chiaramente tra soubrette, ballerine, danzatori di ventre, lì insomma è chiaro che manca un uomo capace di dirigere bene questo spettacolo. Quindi volevo anche rassicurarlo, perché anche se dovesse essere condannato non c'è problema, tanto in Parlamento ce ne sono tanti già condannati, quindi questo qua non dovrebbe essere un problema. Poi se mi permette, sentivo quello spettacolare inno e pensavo con quale faccia tosta il nostro caro Presidente è andato lì a fare la morale, perché veramente insomma siamo all'apoteosi lì, veramente penso che serviva l'ambulanza. Un'ultimissima roba, se mi permette. Sì. Era legato al discorso di fine marzo, perché io sostengo, ma opinione mia personalissima. Che succede a fine marzo? No, sul discorso del conflitto di interessi, che purtroppo... Conflitto di interessi, che succede a fine marzo? No, sul discorso che il decreto che vuole che chi ha TV può anche comprare i giornali... Sì, ma guardi, è una cosa talmente complicata, alcuni dicono che non è come l'hanno raccontato alcuni giornali, è una cosa talmente complicata che non mi va di entrarci. Comunque, la sua opinione qual è? Con questo chiudo. Sì, no, la sua opinione qual è? No, la mia opinione è che il conflitto di interesse purtroppo viene sempre a galla, poi purtroppo ci hanno fatto il lavaggio del cervello facendoci credere che... A lei gliel'hanno fatto, a me non me l'hanno fatto il lavaggio del cervello. Allora complimenti. Neanche a me. Allora complimenti. Per fortuna a me non me l'hanno fatto, se poi pensa che invece a lei gliel'hanno fatto sono affari suoi, a me non me l'hanno fatto. No, neanche a me, ma allora, la stragrande maggioranza credo che è così. Sì, alla stragrande maggioranza degli italiani hanno fatto il lavaggio del cervello, va benissimo. Comunque vi seguo sempre con molto piacere e complimenti, ecco, seriamente. Va bene, grazie. Alberto da Biella, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Una cosa velocissima, alcune sere fa avete ospitato il sottosegretario Giovanardi. Sì. Allora, questo signore ha fatto una tirata su quelle foto che erano apparse circa quelle che lui chiama fosse comuni sulla spiaggia di Tripoli. Io sono rimasto un po' incuriosito da questo fatto e sono andato a rivedermela la cosa, ho visto anche un filmato. Questo signore definiva bufale le notizie e le foto, dicendo che si trattava di cimiteri preesistenti, che c'erano addirittura delle tombe già fatte, eccetera. E allora? La bufala è lui, perché non è assolutamente vero. Quelle erano fosse, non comuni, ma fosse singole, purtroppo. Mi scusi. Beh, fosse di un cimitero, sì. Ma non di un cimitero, erano scavate lì, erano delle fosse di fortuna. Guardi, Alberto, adesso non so a quale fosse lei si riferisce. Comunque, le foto. L'unica foto che ce n'è stata una. Le foto si riferivano, credo, a un cimitero no, di Tripoli. No. Vabbè. Le foto si riferivano ad alcune fosse scavate, si vede frettolosamente da gente professionisti, ovviamente, non da necrofori professionisti. Ma questo, ma da questa gente dobbiamo far governare. Cioè, lui ha strumentalizzato questo fatto per sminuire la gravità della situazione in Libia, ha strumentalizzato anche queste foto definendole bufale. Ma Giovanardi, ma ci rendiamo conto? No, scusi Alberto, il discorso era... Fa il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Guardi che la tesi di Giovanardi, secondo la quale le foto pubblicate da alcuni giornali non potevano essere assimilate alle fosse comuni, non è solamente una cosa che è venuta in mente a Giovanardi. Molte persone si sono chieste se si poteva scrivere fosse comuni davanti a quelle foto. Abbiamo 30 secondi e torniamo subito. De Cristiano Riformisti è sempre con noi, caro Parenzo, ci accompagnerà per tutta la serata. Mi sono innamorato di questo. Ma cos'è che dice esattamente? Non lo so, infatti aspetto il testo. Non dice le solite cose, la famiglia, la libertà. È un inno di un partito, di un movimento. Adesso perché stare così a ironizzare? Partito, no? Adesso, dai, è più bello questo o quello dell'alleanza di centro del signor Pionati? Ma indubbiamente Pionati. Non lo so, non lo so. Io voglio lanciare un grande referendum tra gli ascoltatori della Zanzara. Un popolare, certo. È meglio l'inno dei Cristiano Riformisti oppure quello di Pionati? Per questa nostra patria da salvare. Beh, questo diciamo sembra un po' più costruito, più immediato, ma poi c'è anche del sentimento, c'è della politica, alleanza di centro per l'Italia, per quelli che hanno voglia di cambiare, cioè, ti coinvolge, ti porta le bandiere, non lo ti so. Porta in piazza, certo. Onorevole Briguglio, a lei quale piace di più? Briguglio, Non disputando un mese. Questo lo so, però quale che gusto però, e che gusto ha lei? Cioè le piace più l'inno dei Cristiano, come si chiamano, Riformisti, del signor Mazzocchi, dove Berlusconi ha pronunciato quelle frasi sui gay, oppure l'inno del mitico inossidabile Pionati? Sono indifferente, francamente. È indifferente, vabbè, si può capire l'indifferenza di Briguglio. Tertium non datur, Briguglio, tertium non datur. Però se lei dovesse scegliere così, a livello proprio di a pelle, le strofe, cosa le piace di più? No, va bene così, non vuole nemmeno no, provare. No, non credo che sia. Ma voi ce l'avete l'inno? No, per ora abbiamo temporaneamente le musiche di Morrico. Le musiche di Morricone, vabbè, quelle le avete prese così, non è che... Quella è appropriazione in debita, quella... Briguglio, che avete messo, che cos'è che avete messo a Milano? Siamo autorizzati. Siete autorizzati da Morricone, no? Certo. Ma cos'è che avete messo poi? Che colonna sonora hanno scelto? Tu sei stato a Milano, no, Parenzo? Che colonna sonora scelto? Sì, non ricordo se era. Cos'era? C'era una volta in America, no? Cos'era? No, che colonna sonora avete scelto? C'era una volta in America. C'era una volta in America. Vedi? No, ma c'era anche... sempre ragione. C'era Costituzione. No, ma c'era anche un cantautore, non mi ricordo. Vabbè, comunque, adesso poi lo troverò. C'era una volta in America che era una storia di mafiosi, peraltro. Sì, vabbè, adesso non credo. Quindi che ci sia un riferimento a questo. No, nessun riferimento, diciamo. No, ma credo che fosse bello così la musica, l'inno, eccetera. Senta, signor Briguglio, ma con tutto il casino che c'è in Parlamento oggi, il federalismo, il voto di fiducia e altre cose, infatti sono qui, sono appena uscito per parlare con voi. Sì, lo so. Con il transatlantico. Sì. Se viene in Piazza di Pietra, io sono qui, ci vediamo, mi paga l'aperitivo anche. Ma adesso deve votare. Ti vuoi fare pagare l'aperitivo dall'onorevole Briguglio di Futura Libertà? Guarda che è una cosa. Beh, che cosa... viene qui? Uno dei cosiddetti falchi di Futura Libertà. Onorevole Briguglio. Prego. No, che stava dicendo? I colibrì, che stava dicendo? No, no, ho detto disponibilissimo per l'aperitivo. Ah, certo, dopo però. Dovete votare? Stiamo votando, sì. State votando. Senta, onorevole Briguglio, ma con tutto questo casino che c'è, lei propone una commissione d'inchiesta per la compravendita, della cosiddetta compravendita dei parlamentari. Ma lei si rende conto che le commissioni d'inchiesta in Italia sono sempre state un disastro, che non hanno risolto assolutamente nulla? Io faccio il mio dovere. Non è vero che non hanno risolto nulla, perché alcuni hanno accertato alcune cose, ma non posso sopportare che in Parlamento e dentro le mura di Montecitorio si svolga questa attività e non ci sia un sussulto di dignità. Ho capito, ma lei è così sicuro che avvenga una compra, cioè che vengano comprate le persone a suon di quattrini? c'è una serie di segnalazioni, appunto la commissione d'inchiesta bisogna farla per fare luce sui singoli episodi. Però lei sa benissimo, Briguglio, che non è che si possono mettere in discussione si può mettere in discussione la volontà di un parlamentare di passare da un gruppo all'altro. Uno può passare di gruppo anche un giorno sì e l'altro pure, cioè non c'è vincolo di mandato, eccetera eccetera. Cioè, andare a capire se c'è dietro, come se l'immagina lei sta commissione, una sorta di lei giornalista è a letto che ci sono tariffari, episodi precisi, parlamentari che hanno denunciato cifre con cui diciamo si possono convincere a cambiare schieramento. Se tutti stanno zitti, e allora è come se ci fosse una generale complicità. Noi usciamo da questo clima. Scusi un attimo, Briguglio, per cui lei si immagina una commissione d'inchiesta che agisca sostanzialmente come sempre le commissioni d'inchiesta, con i poteri quasi della magistratura, e dunque per la magistratura, lo dice la Costituzione. Esatto, sì. E dunque che magari vanno una commissione d'inchiesta che può pure fare delle indagini sui conti correnti di questi di alcuni parlamentari, cioè per capire se ci sono stati passaggi di denaro o no. Ma possono interrogare persone, fare alcuni tipi di accertamento, hanno gli stessi poteri la commissione dell'autorità giudiziaria. Dopodiché, se non viene istituita perché, faccio un esempio, la maggioranza non ritiene di doverlo fare, ognuno si assume le proprie responsabilità dinanzi agli elettori. Noi riteniamo che questa sia intanto una strada. Ma Fini è d'accordo? Fini fa il presidente della Camera e quindi ha un ruolo super partis. Noi come partito e Future Libertà e come gruppo parlamentare siamo convinti che questa sia una delle strade per cercare di colmare questo tocco che c'è tra cittadini ed eletti. Senta Briguglio, però il presidente Fini nei giorni scorsi, in qualche intervista in cui proprio non aveva lo stile del presidente della Camera, ha detto che quelli che sono andati via da Future Libertà per tornare nel PDL o per andare nel gruppo misto è un delirio, cioè delle parole molto pesanti. Lei condivide queste parole? Cioè, come li definisce quelli che sono andati via nelle ultime settimane da Future Libertà per tornare nel PDL? Hanno fatto un grave errore se si tratta di convincimento libero. Non apprezziamo, anche perché diciamo hanno dato luogo anche in molti casi, erano persone che fino a un giorno prima avevano detto una cosa, parlo per esempio del voto di fiducia e poi l'indomani hanno cambiato posizione. No, voglio dire, ma secondo lei alcuni sono passati per convenienze, perché addirittura pagati? Non ho elementi per dirlo. Abbiamo la pubblicità, torniamo subito. 800 24 00 24. Liberi di essere liberi, liberi di essere da guerre e schiavitù, dai vincoli politici che esistono qua giù, liberi di credere. Però guarda che non è male questa, Parenzo, eh? Vediamo. Alleanza di centro per l'Italia, per quelli che hanno voglia di cambiare. Io continuo a preferire il primo, non so perché, lo sento più corale, collettivo. Questo è un... qualcuno giustamente segnala che sembra l'inno del Brasile, insomma, no? Il Brasile, il povero Brasile. Sembra l'inno del Brasile, sul serio. Questa però ti dà più emozioni. Bah, ma come fai a dire una cosa del genere? Comunque, a me scatena dentro tutta una cosa. Tu ti rendi conto, quello che ha proposto l'onorevole Briguglio? Cioè, l'onorevole Briguglio, sì, ma io infatti volevo chiedergli, a parte che sono felice se su questa vicenda si occupa la politica e non la magistratura, perché è una vicenda politica, il passaggio di un deputato da ma una non parte è una vicenda all'altra. Politica, è una vicenda, cos'è? Diciamo, ma sì, una vicenda cos'è? Solo politica, certo, solo cos'è politica. Che vicenda è? Di Topolinia? No, ma siccome la commissione d'inchiesta gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, come certo, hai appena preso, e come sapevi, credo. E allora di che stiamo parlando? I parlamentari che fanno le indagini su se stessi per capire se c'è stato un passaggio di denaro, ma sono cose da pazzi, che non esistono. Auspico che lo faccia la politica e non la magistratura. Beh, è una domanda legittima capire le ragioni che hanno spinto. A parlare di cifre, sono stati molti deputati, cioè, visto che le cifre sono circolate con dettagli, o siamo di fronte a dei pazzi che improvvisamente dicono, mi ricordo il dirigente di Caleano, che non considero assolutamente un pazzo, anzi che dice, ho sentito parlare di 350.000 euro eccetera, sì, eccetera. Ma sentire, aver sentito parlare non significa che poi esistano queste cifre, cioè. Non c'è, ma allora è giusto che la politica faccia chiarezza al suo interno, ma tanto chiedono ai parlamentari, hai ricevuto soldi per passare da un partito all'altro? No. Beh, non è esattamente poi che così. Succede? Non è esattamente così, perché ha possibilità di condurre indagini, ha possibilità di fare degli interrogatori, ha possibilità di accedere a questi poteri della magistratura, quindi voglio dire, non ci trovo niente, cosa c'è di male? Qual è la controindicazione? Ma la controindicazione è che, ti ripeto, come è stato documentato più volte e come più volte ha detto anche un esponente di Futura Libertà, peraltro come Benedetto Della Vedova, la maggior parte delle commissioni d'inchiesta della storia parlamentare italiana sono state un fallimento totale, uno spreco di soldi e di denaro. Allora basta fare un cambiamento e dire non ci sono più le commissioni d'inchiesta, non servono a niente, quindi non le istituiamo più, anche quella sul riciclaggio dei rifiuti. Non sarebbe una cattiva idea. Limitarle al massimo. Va bene, Mario da Roma, buonasera Mario. Buonasera Cruciani. Dica. Buonasera Parenzo. Io chiamo a proposito della discussione. Oh, fra poco arriva Monsignor Patacca, fra poco da noi. Parenzo, preparati. Il vescovo ortodosso Lucas Rocco Massimo Giacalone, che ha pranzato con Berlusconi e si è intrufolato dai cristiano riformisti. Mario. Posso? Sì. Posso, sì. No, io chiamo a proposito della discussione sulle trasmissioni televisive, sul fatto di spostare Anno Zero, Ballarò ogni 15 giorni, diciamo, per inserire altre trasmissioni. Beh, io penso sinceramente che sono stanco, guardi, veramente stanco. Di questa introduzione, sì, di questi poteri forti della politica che stanno poteri cercando... forti non mi sembra, non riescono a fare nulla, no? Poteri forti non mi sembrano, poteri deboli al massimo. Poteri forti comunque alla fine. Ma quali poteri forti? Butti espressione di qualche potere. Ci sono anche delle intercettazioni dove il nostro Presidente del Consiglio è stato intercettato praticamente, dove diceva che voleva praticamente chiudere Anno Zero. E quelli sono i poteri forti, si fanno intercettare da forte Berlusconi, io parlo di questi poteri qua, capito? E quali sarebbero questi poteri forti? Di chiudere Anno Zero, qui questo dico. Quindi io penso che questo sia una cosa che veramente mi sta stancando tanto, perché veramente sono delle trasmissioni fatte, forse le uniche. Pronto? Sì. La sento. Sì, qui in Italia fatte da giornalisti seri, a parte tutto, poi Anno Zero c'è un uomo geniale come Marco Travaglia, veramente in Italia ce ne sono pochi. Un genio assoluto. E poi, come? Un genio, dico. Per me sì. Un genio. E penso che veramente sia una cosa cioè proprio alla linea della vergogna. Poi il fatto che si voglia inserire, ecco, per combattere queste trasmissioni, caro Cruciani, ma chi stanno chiamando? Un signore come Vittorio Sgarbi, alias Omino dell'Odio. Perché per combattere queste trasmissioni? Fanno un'altra trasmissione, perché per combattere queste trasmissioni? Fanno una. Secondo me per combattere. Scusi un attimo, Sgarbi farà 5 o 6 puntate. Santoro e Travaglio vanno in onda da settembre fino a maggio, cioè non mi sembra proprio la stessa cosa. Guardi, che Sgarbi vada in onda e che vada in onda anche altro personaggio come quello là che ha fatto quella piazzata ultimamente con le mutande, cioè c'è appese, come si chiama adesso, mi sfugge il nome, il direttore del Foglio? Ferrara, sì. Ferrara, ha fatto una riunione in un teatro milanese, non una piazzata. Sì, secondo me è stata una piazzata praticamente, dove ha cercato di mistificare, cioè la verità, dicendo che guardiamo dall'occhio della serratura. Lì c'è un'inchiesta, signori cari, ma quando lui dice chi sono io per giudicare, Cruciani, io mi incazzo, ma tu no, cioè, incazzi, noi non siamo nessuno per giudicare, sì, qui c'è un giudice che giudica, qui ci sono dei reati, lui ha detto delle cose veramente gravi, quindi se queste persone devono andare in televisione, no, a me, io ci posso andare, questo è un paese libero, ma se loro credono che queste persone, compreso Sgarbi, alias l'omino dell'audience, alias mister certificati falsi, che forse mi parlerà anche di giustizia, perché forse ha detto che voleva invitare Consol, ma dove vogliono andare? Dove vogliono? Cioè non potranno mai realmente mettersi a paragone. E allora qual è il problema? Seri, e allora qual è il problema? Se lei pensa che sono dei cialtroni smutandati, eccetera, eccetera, qual è il problema? Non dovrebbe avere nessun timore, lei che è un fan di Santoro di Travaglio. Queste sono le armi, sono veramente vergognose. E allora perché si agita così troppo? tanto allora lei? Perché è arrabbiato, indignato? Sono arrabbiato perché stanno tentando in tutti i modi di oscurare queste, ma quale oscurare? Persone ma che quale sono oscurare? Rimaste le uniche in Italia, Cruciani, che ci dicono cioè, ci Mario, sono nessuno pubblico, guardi le intercettazioni. Guardi, cioè, se l'arma letale per oscurare Santoro è fare 5 minuti di Ferrara dopo il TG1, la trasmissione di Sgarbi e l'iniziativa di Butti, siamo messi male, eh? Cioè se ci fosse appunto, cioè, appunto allora, stavo dicendo però dico, se... la devono smettere di ma loro chi? Tra 15 giorni hanno zero, cioè se c'è una concorrenza la devono fare leale, cioè questi qua devono andare in onda, tanto noi hanno zero, ce lo andremo a vedere anche sotto la pioggia, Cruciani, anche in mezzo a una piazza. Ah, lei sicuro? Perché sono le uniche trasmissioni lei che sicuramente hanno fatto capire questo schifoso sistema. Benissimo, Mario, lei diciamo che ci ha fatto capire qual è il prototipo del fan di Santoro e di Anzio. No, guardi, in maniera Cruciani, ma perfetta. Mi definisci no, un no, ma qual è il problema? Scusi. Fan. Io sono un fan. Di e allora, io ho detto ma lei... Santoro? Ma perché Santoro dice delle cose giuste? Benissimo, dice, ma ho capito. È un giornalista, lo sa cos'è un giornalista, Cruciani? Sì, lei lo sa cos'è un giornalista? Più o meno. Il giornalista non deve essere né simpatico, né antipatico, né bello. Mi deve raccontare i fatti. Benissimo. Queste persone. Raccontano i fatti, bravo Mario. Io infatti che cosa ho detto? Che lei è la fotografia il prototipo del fan della trasmissione di Santoro. Perfetto, idea spaccato così, ma non è che ho detto che è un delinquente. No, sono un male per questo paese. No, chi ha detto che è un male? Lo sto dicendo semplicemente, sto spiegando agli ascoltatori che quello che ci ha detto, che quello che ci ha raccontato è la quintessenza del pubblico di Santoro. Cruciani, la libertà, quello lo dice lei, la libertà. Io non sono come lei, io non sono come lei e mi sento libero e sono una persona libera, abbia pazienza Mario. Non ho capito, scusi? Io non la penso come lei e mi reputo. Ma non la pensa come me. Allora, cioè lei mi deve dire. Ma scusi, io la devo pensare per forza come lei, abbia pazienza no, Mario. No, però mi deve dare una motivazione. Ma ho capito, se vuole siamo qua fino a domani mattina. Quello che lei ha detto è delle persone che possono i principi della libertà dell'informazione. Me lo spiegherei? No, ma scusi, non ho capito perché devo pensare che sono i paladini della libertà dell'informazione. Non no, lo penso. Lei è liberissimo di pensare il contrario. Però mi deve dire ma io non penso il contrario. Io non penso il contrario. Non è che metto perché come le intercettazioni. Allora, poi ti faccio una domanda. Per lei le intercettazioni vanno pubblicate sì o no? No, fino al processo no. Non fanno pubblicare. Fino al processo no. Non fanno pubblicare. Fino al processo allora, no. Non ho capito. Il dovere di un abbia giornalista. Pazienza. Questo non è che lo dico io, lo diceva pure Veltroni, cioè siamo chiari su questo. Lo diceva pure io Veltroni, io lo dicevo questo io. I titoli della 7, grazie. Gheddafi in TV, avverte la NATO, se interviene ci saranno migliaia di morti, poi tira in ballo l'Italia, costretta a scusarsi, baciarmi la mano e pagare per le colpe coloniali. Infine aggiunge, Berlusconi dice che non ho più il controllo della Libia, ma io sono la Libia. E la NATO prepara piani di intervento, navi militari americane oggi a Suez, nel frattempo è emergenza umanitaria al confine con la Tunisia, oltre 100.000 profughi in fuga dal regime del Raisi e dalla guerra civile. Frattini annuncia una missione umanitaria italiana. Governo pronto a presentare il pacchetto giustizia voluto dal Premier. Finiglissa prende tempo sul conflitto di attribuzione da sollevare alla Consulta. E mentre escono nuovi verbali, Ruby vola al ballo delle debuttante a Vienna, ma io non so ballare il valzer. Maggioranza assicura la prova del voto di fiducia sul fisco municipale. Primo decreto attuativo del federalismo. La Lega chiede e ottiene dal governo la promessa di una proroga di 4 mesi per l'approvazione complessiva della riforma. Bersani al carroccio, reggete il moccolo a Berlusconi. Siete deludenti, dice Bossi. Il ministro della cultura Sandro Bondi scrive: neanche il PDL ti difende, presto mi dimetto. Attacca tutti, i suoi colleghi e la sinistra. In serata alcuni suoi colleghi gli chiedono però di restare. Processo sul crack Cirio, durissime richieste di condanna del PM, 8 anni per Cesare Geronzi, ma soprattutto 15 per il finanziere Sergio Cragnotti. Nel 2003 la chiusura dell'azienda alimentare fece andare in default obbligazioni per oltre 1.000 miliardi di euro. L'accusa è di falso, truffa, bancarotta fraudolenta. E dopo la sospensione per il caso Boffo, decisa dall'ordine dei giornalisti, Vittorio Feltri torna in campo alla guida di Libero e promette battaglia anche sfottendo il cavaliere. Bene, 20:11, caro Parenzo, devo dare la pubblicità, se ci sta ascoltando Monsignor Lucas Giacalone, che sta parlando con il mio assistente, si è un po' arrabbiato perché l'abbiamo presentato come Monsignor Patacca prima, eccetera. Noi abbiamo semplicemente riportato questo, credo che ci stia ascoltando. Abbiamo semplicemente riportato, caro Monsignore, abbiamo semplicemente riportato quello che oggi c'è scritto su un giornale. Lei naturalmente lo può contestare, siamo qui, può smentire, e stiamo aspettando, e stiamo aspettando di metterci in collegamento con lei. Si è molto arrabbiato prima per questa definizione, che però, ripeto, l'abbiamo presa. No, ma intervenga, Monsignore, guardi, le faccio Monsignore, una Monsignore, siamo qui a ascoltare la sua parola, siamo qui ad ascoltare la sua parola. In religioso silenzio. No, ma adesso in silenzio no, però siamo qui ad aspettare. I primi minuti in religioso silenzio, io non taccerò. Durante le parole del Monsignore io ti assicuro che non userò ironia. Comunque noi lo stiamo aspettando, ma abbiamo semplicemente citato quello che c'è scritto sul fatto di oggi, il pranzo del Caimano del falso Monsignore, il sedicente vescovo ortodosso Luca Sorocco Massimo Giacalone a colloquio con Berlusconi, e poi sotto c'è una foto del Monsignore vestito da prete, appunto, Monsignor Patacca, e c'è scritto questo, ma è chiaramente un'interpretazione del fatto, non è mica la nostra, per carità. Ma non lo sapevi che Lele Mora si vuole candidare per il PDL? Sì, lo ha detto, se non sbaglio, in un'intervista che va in onda stasera a Exit, no? Alla 7. Sì, ma l'hai sentito l'audio? Non ho sentito l'audio, mi pare una follia assoluta, però... Beh, no, è una follia, è un libero cittadino, ma no, ma c'è una cosa curiosa nell'intervista di Lele Mora, senti. La mia idea è, alle prossime elezioni, candidarmi e entrare in politica. Quindi ci dà una notizia, alle prossime elezioni lei si candida? Certo, se mi vogliono, se mi accettano, io chiederò per poter fare questo. Con quale partito? Sempre un partito di destra. Ecco, infatti. PDL, se sarò assolto, prosciolto, eccetera, eccetera, perché sai, se sei inquisito non puoi fare questo genere di lavoro. Beh, io credo che Lele Mora non abbia ben presente quella la situazione, per carità, per me un inquisito può fare tranquillamente il parlamentare, però questa è la mia idea, so che va controcorrente rispetto a molti ascoltatori, gli inquisiti, gli indagati, tutte queste minchiate qua. Dipende perché reato sei inquisito. Sì, ma anche se sei inquisito, non c'entra niente. Ma comunque lasciamo dipende perdere questo. Reato. Se sei investito perché se sei inquisito perché sei passato con Rossi e hai tirato sotto un pedone, chiaro, è un tipo di reato. Se sei inquisito per sfruttamento della prostituzione è un altro tipo di reato, certo, per carità. Vabbè, questo è chiaro, è chiaro. Però delle regole, dubbio, amico mio. Però la cosa curiosa di Lele Mora è che dice: se sei inquisito non puoi fare questo lavoro. Ora si l'hanno informato male, diciamo, su alcune persone presenti in Parlamento. Comunque, Lele Mora, l'intervista a Lele Mora. Però c'è anche da sottolineare che il Partito Democratico è in ambasce per questa situazione del senatore tedesco. Ne abbiamo parlato poco, ne parleremo nei prossimi giorni qua alla Zanzara. Cioè, che farà il Partito Democratico di fronte alla richiesta di arresto che viene dai magistrati pugliesi nei confronti di un suo senatore? Sarà giustizialista, come lo è stato negli ultimi mesi, oppure, come sostengono alcuni deputati e senatori, insomma, bisogna vedere le carte e si potrebbe anche negare l'arresto al senatore tedesco? Sarà una battaglia molto interessante. Se è coerente, deve votare a favore dell'autorizzazione a procedere. No, non è, in questo caso è l'autorizzazione all'arresto, è una cosa, cosa diversa. L'autorizzazione a procedere all'arresto, certo. E se è coerente, dovrebbe farlo, come fecero una battaglia durissima nei confronti di Cosentino, e credo che debbano fare la stessa cosa, se sono coerenti, per carità. Va bene, Andrea da Milano, buonasera. Ah, buonasera. Dica. Niente, allora, volevo intervenire, un po' un altro ascoltatore ha anticipato il discorso di Lele Mora, ne state parlando anche voi, poi io parlo in senso propositivo, proporrei innanzitutto a cogliere Gheddafi, perché mi dispiace per quello che sta passando in Libia, quindi proporrei di convocarlo in Italia, dargli l'immunità parlamentare facendo eleggere in un Parlamento italiano, insieme a Lele Mora fare il partito del Bunga Bunga per allargare la maggioranza in Italia. Beh, diciamo, è un po' tardi per fare questa operazione di allargamento della maggioranza, non credo che possa entrare in Parlamento Gheddafi, comunque la provocazione ci sta. Andrea, quindi, poi? Io volevo condividere questa. E poi un'altra cosa, vabbè, sono solidale con il giornalista di Telesveva, anche perché provengo più o meno dalla stessa terra. Sì. E quindi penso che appunto questo abbinamento tra i democratici cristiani, quelli della sigla, non ho capito bene come la sigla del loro partito, cristiano-riformisti, cristiano-riformisti che parlano di famiglia, partito del Bunga Bunga che parla di, cioè, quello qual che è il partito del Bunga Bunga? Quello che si potrebbe formare tra Lele Mora, Gheddafi, portiamo dentro anche, si potrebbero fare tante persone, insomma, anche Emilio Fede, un bel partito. Poi? E quindi fare questa nuova forza politica per allargare, visto che comunque si l'ha già detto prima lei, Andrea, sta ripetendo la stessa cosa. Un risparmio di economico, perché anziché comprare i parlamentari si potrebbe creare una forza, diciamo. Va bene, lei è pronto per il mio amico di Spinoza, no? È pronto per il mio amico del sito Spinoza di satira politica. Benissimo, abbiamo il traffico. Intanto il dottore, professore, monsignore Lucas Rocco Massimo Giacalone, buonasera. Buonasera a lei. Signor Giacalone, come va? Abbastanza bene, a lei come sta? Non c'è male. Allora, lei è dell'istituto, lavora all'Istituto Superiore di Finanza e Organizzazione Aziendale, come si chiama? ISFOA? ISFOA, esatto. Dov'è? In Svizzera, dove si trova? Lugano. A Lugano. Nel suo biglietto da visita c'è scritto: dottor professor monsignor Lucas Rocco Massimo Giacalone, prorettore, docente di finanza etica ed economia sociale. Perfetto. Giusto? Esatto. È tutto esatto. Ci racconterà fra poco cosa è successo dai cristiano riformisti, il suo incontro con Berlusconi, quello che vuole. A fra poco. Liberi di essere liberi, liberi di essere uomini, liberi da guerre e schiavitù, dai vincoli politici che esistono qua giù. Ringrazio. Vedo qui presente Sua Eccellenza Monsignor Luca Rocco Massimo Giacalone. Ma dare a tutto un limite, che siano poi le regole. Era l'annuncio di Mazzocchi, Parenzo. Si era un po' sbagliato Mazzocchi a un certo punto, ha detto Giacalone invece di Giacalone, però insomma va bene lo stesso. Che accoglienza che ha avuto Monsignor Giacalone? Penso che prova a essere ospite chiaramente a casa di qualcuno. No, scusi, sento male, si avvicini di più alla cornetta. C'ho il telefonino a portata di mano, per cui sì. Cosa posso fare? No, va benissimo adesso. No, sto dicendo che accoglienza, no? Addirittura dal palco lì. Ma com'era vestito lei da monsignore? Come si veste solitamente un sacerdote? Come si veste solitamente un sacerdote? Cioè come si veste, per esempio? Come si veste? Lei non ha mai visto in giro un sacerdote come va vestito? No, ma con l'abito, la camicia, crescima e basta. No, ma lei, scusi, è un vescovo ortodosso, però, no? Che problema c'è, scusa? Perché il vescovo ortodosso... No, anzi, nessun problema. Cioè, quello che vorrei capire... Intanto preciso una cosa. Sì. Che uno ha la libertà di vestirsi secondo come meglio ritiene. Ah, non c'è dubbio. Anche Otelma ha la libertà di vestirsi come anche, libertà, anche il mitico divino nostro amico Otelma si può vestire come vuole, per carità. Scusi, siamo in un paese prettamente, grazie a Dio, ancora libero. Non vedo assolutamente. Se uno per andare in un posto deve rendere conto a qualcuno come si deve vestire prima, indipendentemente da quello che no, per carità. Io dico, nella foto che pubblica oggi Il Fatto, per esempio, c'è lei vestito, diciamo. Non solo non è da prete, ma da semplice sacerdote, c'ha in testa una sorta di è la mitra, quello sono mitra. I paramenti ortodossi. I colori quali sono dei paramenti ortodossi? Viola? No, i colori è secondo il periodo liturgico. Sì. Scusi, che facciamo un'intervista dal punto di vista teologico? Crociari, no, monsignore, che intervista fai? Il colore di come si veste? Il colore, nel senso, volevo capire, siccome qui vedo dei colori, il colore viola e anche delle una fascia viola e anche una croce d'oro gialla sul petto, volevo sapere se questa era una... Il pettorale. Sì, è una cosa che lei indossa quotidianamente? Certo. Cioè, no, ma sai, io sono ignorante in queste cose, è come se parlasse una persona della strada, sono ignorante, professore. L'ignoranza serve per documentarsi. No? Assolutamente, infatti. L'ignoranza non significa essere un somalo, significa ignorare, non conoscere qualcosa. Esattamente. Chiariamo subito, dottor professor monsignor Giacalone. È sufficiente monsignor Giacalone. Monsignor Giacalone. Non è caso fare questa ironia sui titoli, perché grazie a Dio sono titoli veri. No, ho capito, ma lei l'ha scritti sul suo biglietto da visita, non è che l'ho scritti io. Scusa, ce l'ho, non vedo. Scusa. Allora se la chiamiamo così non è che si deve offendere, però. Ma io mi sto offendendo, io sto dicendo solamente, mi sta bene, io sono una persona molto semplice, per cui. Sì, assolutamente. Scusi, però il vicariato di Roma, da quello che ci risulta, dice: il signor Giacalone, qualsivoglia iniziativa da lui promossa, non ha niente a che vedere con la Chiesa Cattolica. Allora, forse molti probabilmente non conoscono determinate vicende che chiaramente non mi va di parlarne perché intanto ci sono indagini in corso e ci sono i miei legali. Ho capito, ma lei non fa parte della Chiesa Cattolica, abbia pazienza. Ma io sono ortodosso, che c'entra la Chiesa Cattolica, abbia pazienza, scusa. No, perché qui l'accusa che oggi leggo anche qui dal Fatto è che lei in realtà sia una sorta di pataccaro, cioè guardi, gli avvocati hanno pensato a tutto quanto, per cui anche a querelare il Fatto? No. Per cui praticamente. Giornalisti sarebbe opportuno che prima di scrivere andassero a informarsene nei luoghi di pertinenza e competenza e poi si scrive, no? Sì, e poi si scrive. Lei ci conferma che è un monsignore a tutti gli effetti. A tutti gli effetti di legge. Di quale chiesa, scusi? È riconosciuto dalla Chiesa Ortodossa. Chiesa Ortodossa Bielorussa. Forse voi non sapete, scusate un attimo, che un ente religioso, una volta che è riconosciuto dallo Stato, non è che deve essere riconosciuto da un altro organismo religioso. E lei da chi è stato riconosciuto? Non è che sono stato io riconosciuto, è la mia chiesa che è riconosciuta. La sua chiesa, qual è la sua chiesa? La Chiesa Ortodossa Bielorussa Slava Cattolica Apostolica Dorito Bizantino? Perfetto. Questo è in brasiliano, l'ho detto, anche se in brasiliano Sì. La chiesa? È un ente riconosciuto in Brasile ed è riconosciuto oggi anche in Italia dal Ministero degli Interni. Chiesa Ortodossa Bielorussa Slava Cattolica Apostolica Dorito Bizantino. Vabbè. Esatto, sì. È una chiesa legalmente riconosciuta dallo Stato italiano. Per cui noi non dobbiamo chiedere riconoscimenti né al Vaticano, perché il Vaticano è il Vaticano, noi siamo noi. Sì, ma quante persone, quanti sono gli adepti di questa Chiesa Ortodossa Bielorussa Slava Cattolica Apostolica Dorito Bizantino? La nostra comunità di sacerdoti, quanti siamo? No, più o meno la comunità, quanti sono i fedeli, Fedeli? In Italia siamo più di 2 milioni di fedeli di rito ortodosso. No, scusi, no, non sto dicendo gli ortodossi, è la Chiesa Ortodossa Bielorussa Slava Cattolica Apostolica Dorito Bizantino, è un po' diverso dagli ortodossi. No, è la stessa cosa. È la stessa cosa. Ognuno ha una sua denominazione. Sì. Va bene, come lei si chiama Giuseppe Cruciani, e io mi chiamo Monsignor Giacalone, la nostra chiesa ha quella denominazione. No, perfetto, ma io ripeto, è per conoscere, essendo ignorante. Ma io non capisco, perché hanno scritto sedicente vescovo, se lei è, se l'ho capito, l'errore dove sta? Ma guardi, questo lo deve chiedere ai giornalisti che hanno scritto quello che hanno scritto, non lo deve chiedere a me. Vabbè, comunque poi c'è anche una questione che riguarda anni fa Roma, i cassonetti, leggo un articolo. Ma questo è avvenuto mesi fa, dove ci sono indagini in corso, dove la magistratura chiaramente sta facendo... Sempre indagini ci sono. Ma l'Italia è un paese di indagini, che volete? La beffa dei cassonetti, come in un film di Totò, presunto vescovo ottiene nulla oste e piazza 60 box abusivi per la raccolta dei vestiti. Vabbè, perché siete così bravi a fare indagini? Perché non provate a fare le indagini in tante finte olso che ci sono e che speculano sul quotidiano chiedendo un euro, due euro a destra e a sinistra? Ma lasciamo perdere questo discorso, non volevo fare polemica su questo perché non stiamo indagando sul suo passato. La cosa che volevo capire è questo incontro favoloso con Berlusconi che c'è stato, se è stato favoloso questo incontro, com'è stato questo incontro con Berlusconi? È stato un incontro per me interessante, chiaramente, perché avendo incontrato... Ma Berlusconi sapeva chi era lei? Era informato? Ovviamente una volta che ero lì è chiaro che mi sono presentato, no? E Berlusconi che faccia ha fatto? Com'è che faccia ha fatto? No, che ha detto, Sua Eccellenza? Scusi, perché quando uno, se lei le presenta una persona, che faccia fa? No, beh, dipende, se c'è uno con la mitra, vestito in un modo... Ma carissimo amico, io non ero con la mitra. Ah, non era con la mitra, era in... Vedo che la sua ironia è molto sottile. No, guardi, le assicuro, perché vede l'ironia in tutte le cose? Pensavo che fosse andato... No, e come no? E scusa, se lei sta dicendo non era con la mitra, non mi sono presentato al congresso con tanto di mitra perché non sono andato a celebrare la Santa Messa. Era in abiti civili, no? Perfetto. In abiti civili. La domanda è legittima però, monsignore, perché se uno la vede agghindato con questi bellissimi abiti, è normale che, scusa, non è normale vedere persone agghindate in questo modo? Ma quelli sono abiti per la celebrazione liturgica, non sono certo, abiti che uno si mette la mattina e se ne va in giro per le vie di Roma o di Milano. No, ma lei quindi come si è presentato? Sono il dottor professor Monsignor Lucas Rocco Massimo Giacalone, dai, professore docente. Ancora facciamo il festival dei titoli? No, allora lei si è presentato, sono Monsignor Giacalone, come è stata la cosa? Come si è presentato? Come mi sono presentato, con sì, il mio nome e cognome, punto. Ma lei è amico personale del signor Mazzocchi, dei Cristiano Riformisti? Io sono amico di tutti gli amici che ci sono nel mondo, come posso essere anche amico suo. Vabbè, ho capito, ma insomma, a che titolo è andato lì da incontrare Berlusconi? Si è intrufolato, ha fatto il portoghese, no? Io non sono una persona che mi va vale a appunto, dico io. Cioè... Anche perché con tutta quella barriera di protezione che c'era, non credo che una persona si va a intrufolare. Appunto, dico. Appunto. Se non è invitata. Certo. No? Allora, riprendiamo dopo la borsa, lei che si occupa di finanze, organizzazione aziendale, magari è interessato a sapere come sono andati i mercati finanziari fino adesso, oppure non gliene frega niente, oppure l'ha già visto. Comunque sentiamo la borsa e torniamo subito dopo. I Cristiano Riformisti, caro Parenzo, il cui inno risuona alla Zanzara praticamente da un paio d'ore, indisturbato. Credo che ci dovrebbero pagare i Cristiano Riformisti per questa pubblicità, Royalty. 800-24. Faremo una raccolta di fondi. Monsignor Giacalone, scusi, io sto mandando dalle 6:30 praticamente l'inno dei Cristiano Riformisti in onda qui alla Zanzara. Credo che con decine, se non centinaia. Vedi, carissimo amico. Sì, mi dica, signore. Sarebbe stato più carino un invito direttamente negli studi. Perché. No, lei ha ragione. Purtroppo io sono a Milano e il signor Parenzo. Ma a Roma. A Roma, quando torniamo, volentieri. Come no? Venga negli studi, però vestito come si deve, non in abiti civili. Ma io non vado in abito, io vado sempre in abito da sacerdote in giro. Non ma vado perché da dai Cristiano Riformisti non c'è andato con in abito da sacerdote? Come no? Io ero vestito da sacerdote, altro che. Ma scusi, Monsignore Giacalone, ci ha appena detto che dal No, io ero in abiti da sacerdote. Ma scusi, ha appena detto che io lei è andato in abiti civili. Non laico, civile da sacerdote, non con i paramenti sacri. Attenzione. Ho capito, ma cioè come ci spieghi come era vestito allora a questo punto, così capiamo. Con un abito nero e la camicia da sacerdote. Cioè, come un prete qualunque. Come un prete qualunque. Io sono un prete, sono un prete, non ho capito perché, scusate, una persona che cosa si deve mettere per essere, non lo so, non arrivo a capire questa vostra... No, mi scusi, Monsignor Giacalone, essendo noi ignoranti della Chiesa Ortodossa dell'esistenza ma anche... Ma non c'entra, ma queste ironie, essendo ignorante della Chiesa Ortodossa, Bielorussia, Slava, Torito, Bizantino, bla bla bla. Scusi, io sono un sacerdote ortodosso. Punto, che vado in giro per come vanno vestiti tutti i sacerdoti di questo mondo. Ma perché voleva incontrare Berlusconi? Ma io non è che sono andato lì perché volevo incontrare, io sono stato lì. Come quando uno è invitato ad andare in un evento, in una manifestazione. D'accordo, però mi dica la verità, voleva incontrare Berlusconi? Non è mica un delitto incontrare Berlusconi, Pronto? Pronto. Allora? Di averlo incontrato e di averlo conosciuto di persona. Ho capito, ma che doveva dire di così importante a Berlusconi tanto da volerlo incontrare? Ma quando un incontro è riservato rimane sempre riservato. Ma non era a pranzo? Sì, eravamo a pranzo ed eravamo a tavola dove c'erano presenti altre persone. C'era qualche proposta, qualche cosa in ballo? No. Candidature, cose, no? È stata una piacevole conversazione tra persone per bene. Senta, ma a lei piacerebbe entrare in Parlamento in Italia? A me piacerebbe entrare in Parlamento in Italia. Sì. Le mie dei signori sono infinite. Beh, questo vale per tutto, ci naturalmente. Ci manca solo, dai, adesso. Ma perché? Che male ci sarebbe? Cioè, non mica ci sono vincoli. Dai, la Chiesa Ortodossa pone ma questo... Ma lui fa già benissimo il suo mestiere di monsignore, dottor, professore, del prorettore dell'università, eccetera. Perché si deve svilire così, entrare nelle istituzioni, è a contatto con la politica, lui è un monsignore, cioè, ma di che Crociani, ma di che parli? Ma guardi, guardi carissimo amico, che non ho il piacere di conoscere. No, amico no, però insomma... È il dottore, no, dottore Parenzo, il dottore Parenzo. Dottore Parenzo, io non mi svidisco mai quando faccio le cose, perché nel momento in cui faccio una cosa la faccio con la massima convinzione di quello che faccio. Ma la Chiesa ortodossa può prevedere il fatto che ci sono dei suoi rappresentanti che vanno in Parlamento? La Chiesa ortodossa tutta, sì, se un sacerdote desidera entrare in politica può anche farlo. Può anche farlo. Quindi dunque, non viene sospeso a divinis come il Bagé, come dunque, Bagé Bozzo. Dunque lei è pronto, diciamo, lei è pronto per questa esperienza. Ma io ho sempre fatto politica. Sempre fatto politica, dunque si sente pronto a questa esperienza. Siamo noi che non siamo ancora pronti ad avere il Monsignore, forse? Non lo so, ma non lo so. Ma io non sto dicendo, io non sto dicendo questo. Io ho detto che comunque uno fa sempre politica nel suo quotidiano. Sì, quello è vero, la politica è dappertutto, per carità. La politica ci pervade quotidianamente. Quindi non è che ognuno esprime sempre... Se poi esprimere un pensiero politico oggi, sì, se un sacerdote non lo può neanche fare, allora in questo paese d'aria prendiamo valigie e ce ne andiamo. No, per carità, ma lei però può dire quello. Io ho un'altra domanda, perché sì, nell'articolo del Fatto di oggi, scusami, un altro tema al dottor professor Monsignor Luca Rocco Massimo Giacalone, cioè, leggo che c'è il patriarca della Chiesa bielorussa slava, cioè questo palermitano Vittorio Giovanni Busà, sì, che lo fermo subito. Perché è l'ord supremo del Parlamento Mondiale. L'ord supremo del Parlamento Mondiale. Guardi, che le dico subito una cosa. Le dico solo a me. Il mio patriarca è Atanasio I ed è a San Paolo del Brasile. Chi è, scusi, Atanasio I a San Paolo del Brasile? Esatto. E questo qua? Della chiesa di dove io dipendo, punto, mi fermo lì. Atanasio I, e che vabbè, il secondo dov'è? Quello prima. Questo Vittorio Giovanni Busacchi chi è allora? Non lo so. Ma come? Ma quindi... è anche l'ord supremo del Parlamento Mondiale? Dobbiamo parlare dell'articolo o dobbiamo parlare di altre cose? No, no, mi è venuta la curiosità per capire questa chiesa ortodossa. Allora, se lei le è venuta questa curiosità, la vado a approfondire. No, per scusi, conto scusi, amico mio, dottor Monsignore, la curiosità è che la chiesa ortodossa bielorussa ha sede in Brasile. Che cazzo c'è del Brasile con la chiesa ortodossa bielorussa? Scusi. Non ho capito, scusi. Cosa c'entra la chiesa ortodossa bielorussa col Brasile? Cosa c'entra? Ecco, la chiesa col Brasile, se è ortodossa bielorussa, perché negli anni storici del passato, un sacerdote che proveniva dalla Bielorussia, che si è trasferito chiaramente nel periodo fascista. Beh, non dica chiaramente perché però non è chiaro, comunque. Eh? No, guardi, si va a documentare, che no, vuole che le dica. Il mio sospetto, se lei vuole contestare uno le cose che dice. No, Monsignor Giacalone, lo sa qual è il sospetto? Che in Brasile, proliferando, come lei sa, sette. Sì, lo so, in Brasile si prolifera di tutto e di più. Ma d'altronde anche in Italia si prolifera ormai di tutto e di più. Di gente che va in giro a proliferare anche le fregature per il prossimo. No, appunto, vabbè, comunque. Ma voi potete tutto il mondo è paese. Ma voi potete diceva Parenzo, voi potete proliferare. Sì, noi forse il dottor Parenzo penso che lo sa che i sacerdoti ortodossi si possono sposare e avere una famiglia. Lei è tra l'altro Io sono stato sposato, glielo dico subito, sono stato sposato e ho anche due figli. Anche due figli. Adesso niente, ha una relazione, non mi voglio fare gli affari suoi. No. Poi, a parte il fatto che la mia è privata, è la sua vita privata, perché è single, comunque è single. Quindi sì, sono single. È single. Senta, no, io volevo sapere una cosa però, Monsignor Giacalone, ed anche, è questa. Anche due. No, vabbè, iniziamo con una. Sai che ogni tanto c'ho questo, mi viene in mente una cosa, stavo pensando, adesso mi è sfuggita, è una cosa fondamentale questa cosa, che è una cosa grave, vero Monsignor Giacalone? Lei che cosa è grave? No, è grave dimenticarsi ogni tanto quello che uno ha da dire, no? No, ecco, sì, me lo sono ricordato adesso, la questione dei gay, no? Lei che è Monsignore, sì, ci può aiutare su questo? Ha sentito Berlusconi tuonare, ma secondo lei i gay sono malati, Monsignore? Io non sono un medico. No, ho capito, ma lei come che ne pensa dei gay? Già questa risposta, voglio dire, io non sono un medico. Lei non è un medico, ho capito, ma che sei certo. Se lei mi dice che i gay sono malati, io dico che non sono un medico. D'accordo, ma secondo lei i gay sono disturbati? Cioè no, è una malattia essere gay, questo è una malattia? Guardi, ognuno della propria vita privata fa quello che vuole, di scegliere la propria vita, sì, in piena autonomia e libertà. Ma questa chiesa... nessuno è, almeno come la penso io, sì, autorizzato a dire che quello è malato o è un disturbato. Ma lei è più avanti spesso di alcune posizioni della Chiesa Cattolica, Monsignor Giacalone? Io dico il mio pensiero, non sto a pensare cosa dicono gli altri. E i matrimoni gay che ha detto Berlusconi, mai i matrimoni gay lì dai cristiani riformisti? Ma il presidente Berlusconi ha espresso un suo pensiero personale, su questo non c'è dubbio. Esprimere quello mio. Qual è il suo? È d'accordo con i matrimoni gay? Io non posso accettare il matrimonio gay, perché il matrimonio gay non costituisce famiglia. Eh no. E quindi, se dobbiamo parlare di concetto famiglia, chiaramente, poi se due persone, due uomini o due donne, si ritengono opportuno di mettere, di convivere sotto lo stesso tetto, perché sono liberi di poterlo fare. Scusi, è una scelta loro. Sì. Però adesso non c'è... No, per carità. Non credo che lei, se lei ha due amici che convivono, si mette a criticare sull'operato di questi. Senta, Monsignore, però io sono curioso di una cosa, ma lei con Berlusconi, ma di che adesso, perché non mi voglio fare gli affari suoi, ma esatto. Qual è stato il tono del colloquio? È stato lungo innanzitutto questo colloquio con Berlusconi? Tempo necessario di un piacevole incontro. Piacevole incontro. Ma Berlusconi si è reso conto che aveva di fronte il Monsignor Giacalone, certo, dell'università, certo, eccetera. Cioè, certo, sapeva tutto anche, certo, di questa. Sapeva che era ortodosso, sapeva tutto. Certo. Sapeva tutto. E perché? Vabbè, in Berlusconi incontra un sacco di persone, per carità. Sì, perché doveva fare una discriminazione a non. No, non ho capito. Ma c'è stata l'intermediazione del signor Mazzocchi? Non è che c'è stato un intermediario, ero lì praticamente, dopodiché c'è stato questo. Che misteri che ci sono, Parenzo, ci sono dei misteri pazzeschi nella politica, incontri. Ma c'è un altro mistero, ma sì, questi incontri di Berlusconi, però c'è un'altra cosa che mi... È che siete voi giornalisti che vedete il mistero ovunque. Grazie, il dottor professor Giacalone. No, ma l'ultima cosa, perché lui fa parte di questo centro studi parlamentare internazionale? Sì. Scusi, ho detto giusto, Centro Studi Parlamentari Internazionale. Di che vi occupate? Esatto, e quindi sono un'associazione di liberi professionisti, sì, che porteranno all'attenzione con, sì, eventuali riferimenti. No, perché ricorda vagamente la cancelleria del Divino Telma. Vagamente. Lei conosce il Divino Telma? Non saprei chi è, sinceramente. Non sa chi è il Divino Telma. Ricorda vagamente la cancelleria. Ma mandate comunicati anche voi o no su quello che fate? Non ho capito. No, dico, mandate comunicati sulla vostra attività al Centro Studi Parlamentare Internazionale. Certo, sì, certo. E mandateci tutto alla Zanzara, per cortesia. Giacalone, noi vogliamo essere, adesso, senza ironia, davvero, vogliamo essere informati sull'attività. Nel momento in cui sarà opportuno sarete anche informati. Va bene, che cosa ha in programma lei? Altri incontri con leader politici, cose di questo tipo? Altre... I miei programmi sicuramente saranno portati a conoscenza dell'opinione pubblica, naturalmente. Dell'opinione pubblica. Per cui io sono una persona così trasparente, guarda, che non ho niente da nascondere. Infatti lei pubblica pure il suo, hanno pubblicato pure il suo numero di cellulare sul giornale. Appunto, quindi si figuri. più di questo che cosa, in Italia ormai è un paese che è alla, sì, porta di mano di tutti quanti. Qui la mattina uno si sveglia e diventa direttore di giornale, direttore di televisione, monsignore, di più. Monsignore pure. Monsignore, come no? Così. Amica mia. Va bene, traffico. Di dov'è lei? Di dov'è originario, signor Monsignore? Scusi, Monsignor Giacalone. Io sono di origine siciliana. Di dove esattamente? Della provincia di Trapani, città Marsala. È mai scritto anche su internet, guarda. Per cui non è che c'è mistero. Non c'è mistero, no, vabbè, in questo guardi, mistero non ci può essere. Certo, qualche mistero, scusi un attimo, su questa famosa, su questo Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace. Quello non è una domanda che deve fare a me, la deve fare agli altri, non ho capito, è mia competenza. Ma, sì. Se io avessi avuto delle remore in merito, chiaramente, sì, non sarei stato una persona pubblica. Sì. Perché una persona, lei lo sa perfettamente, una persona nel momento in cui si espone è chiaro che purtroppo deve accettare sia le note positive che quelle negative. In Italia sono di più quelle negative che quelle positive, non è importanza. Tanto guarda, o prima o dopo dobbiamo rendere conto solamente a nostro ad signore, ad uno solo. Comunque rimanga dove quindi, sta, ci manca quindi, solo lei di conseguenza, guardi. Poi vedremo. Giacalone, comunque guardi, le posso assicurare, monsignore, che come diceva prima Parenzo, e poi chiudo. Sì. In Parlamento ci manca solo lei e poi abbiamo chiuso. Rimanga dove sta. Rimanga dove sta, perché rimanga dov'è a fare le cose che fa. Allora, senza non ironia, togliere, ci manca a questo, solo lei, professore, guardi. A questo riferimento con un po' di sarcasmo sotto e ironia. Io penso che comunque in Parlamento la sinistra di peggio ne ha portate. Ma scusi, che c'entra la sinistra adesso? Adesso. Se non c'entra la sinistra, un attimo solo, lei è anticomunista? Siccome sono... Lei si professa anticomunista, monsignore? Io sono una persona libera. Vabbè, ho capito. Devo dare il traffico. La sa questa canzone, monsignore? La conoscono? Canti con noi. Crediamo. Beh, questa è una canzone che c'è lo spirito della libertà. La libertà, libertà. Caro Giuseppe, dobbiamo cercare di difenderla. Caro Rocco, ma lei preferisce essere chiamato preferisce essere chiamato Lucas, Rocco o Massimo? Ma non ha importanza. Non ha importanza. Sono tre nomi che sono tutti e tre miei. Scelga. Ma Lucas è per lei, Vabbè, allora non sceglie, lo chiamerò. Io Rocco, preferisco Rocco, caro Rocco. Perfetto. Le faccio sentire un ascoltatore che ci chiama da Roma, Salvatore, 800 24 00 24. Signor Salvatore. Buonasera. Dica. Buonasera a lei, a Cruciani, anche sì, a Monsignore. Sì. Io semplicemente Monsignore, chiamavo. Comunque. No, non chiamare. Il Monsignore. Sì, Monsignore, per carità. Allora io chiamo perché. Provengo da un, in realtà vivo a Roma, provengo da un paese in Calabria italo-albanese, sì, in cui c'è la sede dell'eparchia bizantina di rito greco dell'eparchia bizantina del rito greco bizantino. Allora? Volevo dire che semplicemente che non ho mai sentito nominare né il Monsignore, tantomeno la Chiesa ortodossa bielorossa slava e cattolica apostolica. Beh, che devo dire, nemmeno io, Salvatore. Non è che dobbiamo mettere i manifesti noi, scusi. Scusi, no. che stava dicendo, Monsignore? Non è che a me fanno ridere le persone quando dicono non ho mai sentito nominare. Quando c'è una nuova istituzione religiosa in un paese, perché l'istituzione che deve andare a mettere i manifesti in tutta Italia per dire ci sono pure io. Ovvio, però comunque io provenendo da una zona in cui fondamentalmente il rito bizantino greco-ortodosso è il rito ufficiale, ecco. Sì. Quindi guarda carissimo amico, che le comunità ortodosse sono tutte chiese autocefali, indipendenti l'una dall'altra. Ecco, per appunto, cui la comunità che sta lì in Calabria è una comunità che esiste da tempo. Punto e nascono basta. Come funghi, questo vuole dire Monsignor Giacalone. Sicuramente, no, ma infatti comunque. Lorenzo da Roma, Salvatore, grazie. Lorenzo da Roma, buonasera. Sì, buonasera. Io intervengo perché ero un po' incacchiato quando lei ha detto che in Italia ci sono paletti molto alti rispetto all'estero, si parlava delle sulle dimissioni. Secondo me ribadisce, secondo me, al mio opinione che ho, mi permetta di lei, che è un po' troppo, dà un po' troppe giustificazioni a questi nostri politici. No, guardi, veramente io ho detto che se uno viene pizzicato come Bondi a fare un contratto per il figlio della sua compagna, la cosa non va tanto bene, secondo me non può più fare il ministro dei beni culturali. Però detto questo, poi in Italia ci sono altre, come dire, ripeto, il senso del limite da questo punto di vista, cioè quando uno si deve dimettere è una... ci sono regole un po' diverse, regole non scritte, molto diverse rispetto a quelle di altri paesi. Non dico che sia giusto o sbagliato, però è così. È così, però no, il problema sì, ma non è semplice cambiare la mentalità, non è che, cioè, da questo punto di vista fa parte un po' della nostra storia politico-parlamentare, non è semplice cambiare la mentalità da questo punto di vista, no? Sì, l'etica morale, c'è anche di culturale, se appartiene, diciamo, alla corrente giustificazionismo, non lo so. Ma non è così, nessuno vuole giustificare nulla. Io, io volevo solo dire una cosa. Sì. Io mi secco moltissimo a sentire parlare, uno, della parola politica. Sì. Sono anni che non si fa politica in Italia, si fa solo accaparramento di potere. Cioè, la cosa importante da fare è il lavoro. La seconda cosa che non è bisogno sì. fare è rendersi conto. Io ho vissuto per parecchi anni sì. fuori Italia. Però mi scusi un attimo, ho Simone della provincia di Varese per concludere. Simone, dica. Sì, buonasera, sono Simone Pintori, membro dell'esecutivo nazionale dei Cristiano Riformisti. Buonasera, monsignore. Buonasera. Buonasera. Che ha da dirci, Simone? Siamo in conclusione. Niente, volevo solo sostanzialmente, mi hanno chiamato dicendo che state parlando di noi dell'incontro di sabato. Ma lei lo conosce, monsignore? Sì, ci siamo conosciuti, ho avuto modo di conoscerlo. È uno dei vostri? È una persona che sicuramente predisposto ad ascoltare anche i nostri valori, i nostri ideali. Ma perché ha incontrato Berlusconi? Ce lo dica lei, che monsignore non ci ha detto. Ognuno incontra, penso, le persone che meglio crede. Ma gliele avete fatto incontrare voi? Dica la verità. No, assolutamente. Tutto stato in maniera pienamente autonoma. Ho avuto modo di conoscere monsignore, una persona. Vabbè, poi domani ci spiegherà. Se dobbiamo concludere, monsignor Giacalone, mi dica la verità. È Berlusconi che l'ha voluto incontrare, oppure è lei che ha insistito? Ma non c'è stato né ma qualcuno che ha deciso, che, no, non è che io che ho insistito, è stato un incontro direi quasi casuale, punto. Casuale, vabbè. Grazie monsignore, professor monsignore Luca Sarocco Massimo Giacalone, una cosa pazzesca. Io ringrazio lei, ringrazio la nostra radio, vi do la mia benedizione. Ci dia la sua benedizione. Ma perché non accetti la benedizione del monsignore? Scusa. La benedizione del monsignore, posso fare a meno della benedizione del monsignore, scusami. A domani andiamo via con questa benedizione, andiamo ma via. Ma io non lo so, è cosa.